Parola in punto con Simone Spezia. Una buona giornata, gentili ascoltatori. I super ricchi devono andare al diavolo, ha detto ieri Niki Vendola, riferendosi al caso di Gérard Depardieu, che, come sapete, con una grande sceneggiata è andato a prendere la cittadinanza russa dopo l'innalzamento delle tasse, poi in realtà bocciata dalla Corte Costituzionale francese proprio appunto per i ricchi. La domanda che ci poniamo oggi, il tema di dibattito che vogliamo affrontare, è certa tendenza che attraversa il mondo occidentale in particolare, non solo a sinistra, a vedere nella ricchezza in sé un male, e le parole di Vendola in qualche modo sembrano dimostrarlo. È comunque un tic, naturalmente, che sta molto a sinistra, e di questo discuteremo questa mattina. 800 24 00 24 per le vostre opinioni, oppure su Twitter l'hashtag è 9 in punto, col 9 scritto a lettere. Ci sentiamo dopo il GR. 9 in punto. Buona giornata dunque, gentili ascoltatori, da Simone Spezia. Oggi parliamo di ricchezza, partiamo da queste parole di Niki Vendola che avrete visto sui giornali, avrete sentito ieri anche nei telegiornali: i super ricchi devono andare al diavolo, in riferimento ad una domanda su Gérard Depardieu e su questa sceneggiata, come si diceva, della cittadinanza presa in Russia. C'è un articolo oggi del Corriere della Sera a firma di Pierluigi Battista che mi sembra centri bene il tema che vogliamo affrontare questa mattina. Vi ricordo il telefono per intervenire in diretta 800 24 00 24, e l'hashtag su Twitter è 9 in punto, col 9 scritto a lettere. Scrive Battista, partirei da qua: il pauperismo classista della sinistra ha del resto ben piantate le sue radici in una lunga tradizione di pamfletini, di convenzioni iconografiche. L'idea che il ricco cospiri a nascondere i suoi tesori per escluderne dal godimento il popolo, l'idea che la ricchezza come la proprietà sia sempre comunque la sigillo un furto, un'iniquità, una sottrazione, l'idea che la ricchezza, quando non da espropriare tout court, debba essere redistribuita con forti politiche sociali, soprattutto sul lato della tassazione, non più soltanto progressività delle imposte, come del resto recita il testo costituzionale, ma fortissima sanzione per chi supera un certo limite, oltrepassa una soglia maledetta, che sarà pure una condizione paradisiaca in questa terra di ineguaglianza, ma che merita vendolianamente l'inferno. Così Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. La realtà è che probabilmente questo tipo di sentimento, soprattutto nell'ultimo periodo, con l'arrivare di questa grande crisi che ha colpito soprattutto il mondo occidentale, sta attraversando non solamente la sinistra, un pezzo della sinistra naturalmente, e tra l'altro già ce lo scrivete su Twitter, ma anche un pezzo della destra, alcuni pezzi della destra e del centrodestra. Quindi non è una questione che possiamo limitare ad un'esclusiva questione politica. Dunque vogliamo discutere di questo e vogliamo i vostri interventi, le vostre opinioni. 800 24 0024 per intervenire in diretta. 9 in punto, come si diceva, l'hashtag su Twitter. Saluto i nostri ospiti, che sono Giorgio Cremaschi, portavoce del comitato No Debito, ex dirigente della FIOM. Buongiorno Cremaschi. Buongiorno, buongiorno. Saluto dall'altra parte, per così dire, Claudio Borghi, economista, editorialista, docente presso editorialista del giornale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno Borghi. Buongiorno. E saluto anche, insomma, visto che si parla di diavolo, abbiamo chiesto un intervento anche ad un sacerdote che si occupa di povertà e di diseguaglianze, ma insomma sul territorio, sulla strada, per così dire. Don Virginio Colmegna, fondatore della Casa della Carità di Milano, Casa della Carità che tra l'altro ha compiuto 10 anni in novembre, se non erro, Don sì. Colmegna. Sì, sì. Buongiorno anche, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Io partirei da Cremaschi. Cremaschi ha sentito, insomma, quello che scrive Battista oggi. C'è una sorta di riflesso condizionato da parte della sinistra, di un pezzo della sinistra, a vedere nella ricchezza in sé un male. O no? Vabbè, ma mi pare che Battista non scriva delle cose onestamente originali, perché lui fa semplicemente un piccolo processo a 150 anni di storia dell'umanità. Negli ultimi 150 anni la battaglia per l'uguaglianza, con alti e bassi, è stata al centro di tutti i temi di tutti i temi culturali, sociali, della politica. Se penso a quello che scriveva Keynes, che non era di sinistra sicuramente, negli anni 30, sulla ricchezza, penso che diceva delle cose ben più radicali di quelle di Vendola, ecco. Quindi credo che Battista rappresenti un po', forse, senza volere su questo essere troppo particolarmente brutali, rappresenti un po', appunto, un pensiero conservatore che appena sente la parola ricchezza in quanto tale subito scatta, perché a me colpisce questo fatto che la parola ricchezza sia in qualche modo una parola proibita, no, oggi nel nostro linguaggio. Al di là di come l'ha sollevato Vendola, io voglio subito dire che penso che in campagna elettorale bisogna prendere tutto quello che dicono quelli che sono in campagna elettorale con le molle, vale per tutti, quindi lo dico questo come cautela per la discussione futura. Quindi. Ma detto questo, me colpisce il fatto che in Italia la parola ricchezza sia un po' una parola proibita, quasi pornografica, cioè basta che uno dica la parola ricchezza anche senza aggettivi, che già solo questo, ricchi ancora di più, susciti scandalo, cioè è una parola che tendenzialmente non si può usare, già questo indica che evidentemente c'è una forma di tabù psicologico che nasce, secondo me, da almeno 30 anni di una certa politica economica e anche soprattutto culturale, cioè non si può, diciamo, è considerato disdicevole nella buona società, nella buona società della politica e del dibattito culturale, sottolineare un fatto che è in tutte le statistiche di questi giorni, cioè che nonostante la crisi i ricchi in questo momento stanno diventando più ricchi, e non solo i poveri ma stanno diventando più poveri, ma quello che nell'Occidente viene chiamato il ceto medio, cioè i lavoratori dipendenti medi, i piccoli artigiani, cioè quello che è l'ossatura delle società occidentali, si sta rapidamente, nella sua maggioranza, impoverendo. Quindi siamo di fronte a una spaccatura sociale, enorme, e io credo che questo problema dovrebbe essere affrontato. Cremaschi, sì. No, la interrompo per dire che è anche importante ricordare che è vero che queste diseguaglianze aumentano nel mondo occidentale, nel nostro mondo, e quindi naturalmente ci guardiamo, perché è una cosa che riguarda noi intimamente, riguarda il nostro paese, riguarda il luogo dove viviamo, però è vero anche che a livello globale queste disuguaglianze diminuiscono, cioè per ogni, non so, 20.000 italiani che entrano in una fascia di povertà relativa, che poi non è la povertà assoluta, ci sono milioni di cinesi, milioni di indiani e milioni di persone in tutto il mondo che invece da questa povertà escono, e questo è un dato comunque da tenere presente, direi, insomma. Sono luoghi, tra l'altro, nei quali la ricchezza non viene vista con quello che lei definisce un tabù. Ma guardi, intanto i dati economici ci dicono che le 100 persone più ricche del mondo hanno la stessa quantità di ricchezza di circa il miliardo di persone più povere. Quindi è vero che c'è stata una crescita economica e c'è in corso una grande crescita economica in alcuni grandi paesi, dall'India al Brasile, alla Cina, eccetera. Ed è vero che questo ha prodotto sicuramente con l'industrializzazione, come è avvenuto da noi negli anni 50 o in altri paesi anche prima, ha prodotto giganteschi processi di crescita economica, nessuno li nega, che hanno portato i contadini a diventare operai e quindi a migliorare in massa le loro condizioni. Ma è vero che poi dentro questo schema si sono ricreate enormi contraddizioni sociali, e uno dei grandi problemi della Cina è proprio questo, cioè l'enorme iniquità della distribuzione della ricchezza. Io penso che, per dire ai soldoni, quindi così anticipo il mio pensiero, che oggi non ci si possa più permettere queste disuguaglianze sociali. E come l'inquinamento ambientale, guardi, non metto giudizi morali, così come io penso che non si può ammettere che ci sia uno che fuma in un asilo 50 sigarette al giorno in un asilo nido per bambini, così penso che noi non possiamo più permetterci persone che hanno questi livelli enormi, che concentrano su di sé questi enormi livelli di ricchezza. Penso che non sia solo una questione italiana, sia una questione mondiale. Cioè, penso che questi super ricchi siano figure del passato, di un mondo che io credo dobbiamo superare e che l'umanità non se li possa più permettere. È un costo sociale ed ecologico che il mondo non si può più permettere, queste super ricchezze, queste super concentrazioni di ricchezze. Così come non possiamo più permetterci poi quello che, gli effetti di questo, cioè questa enorme capacità di manovra della finanza, che poi è quello che ha portato alla crisi da cui non stiamo uscendo, questo fatto cioè che a un certo punto la grande ricchezza si autonomizza invece che investire nella cosiddetta economia reale, investe nella finanza, nella speculazione, gira per il mondo e invece che produrre ricchezza produce povertà. Ecco, questo è il punto a cui siamo arrivati oggi. Chiarissimo. Cremaschi. Sì, no, Cremaschi, il punto mi sembra chiarissimo, almeno la sua posizione mi sembra chiarissima, e l'idea mia, per carità, personalissima, è che in realtà questo tabù del quale lei ha parlato cada nel momento nel quale si deve parlare male della ricchezza. Comunque la sua tesi è: questi ricchi non ce li possiamo più permettere. Tra poco veniamo a Don Colmenio, ma prima voglio sentire l'opinione di Claudio Borghi a questo lato, lo ripeto, economista, docente all'Università Cattolica di Milano. Borghi. Buongiorno. Allora, io penso che sulle tasse si faccia una gran confusione. Sono tutti favorevoli alle tasse sugli altri, sono tutti favorevoli alle patrimoniali sugli altri, ma non si fa un discorso fatto bene. Uno dice, quando in Italia quando sente la parola ricchezza scatta. E certo scatta, perché siamo in un paese dove la tassazione è la più alta del mondo. E quindi chi tutte le tasse le paga, e dato che le tasse in Italia sono fortemente progressive, quelli che sono un po' più ricchi significa che hanno pagato molte di più rispetto agli altri di tasse, a quel punto c'è l'effetto goccia che fa traboccare il vaso. Uno dice, io sto pagando una pressione fiscale, lo dice l'Agenzia delle Entrate, che per i redditi alti la pressione è vicina al 70%, quella effettiva, e poi dopo quello che mi rimane dopo una tassazione assurda a fronte di servizi inesistenti mi deve venire sequestrato, perché significa che poi dopo ce n'è troppo. Quei pochi eroi della dichiarazione elevata, perché sappiamo che stiamo parlando di pochissime persone, stiamo parlando di poche migliaia, sono 2000 qualcosa, adesso poi se vuole le trovi i dati, che hanno dichiarato più di 500.000, e che su cui una pressione grave, una pressione fiscale del 70%, a quel punto devono anche essere criminalizzati dopo che hanno pagato tutto. Invece di dire quanto hanno di queste persone di ricchezza rispetto al numero di poveri, che tanto poi possiamo prenderne quanti più poveri vogliamo, cioè, perché se anche uno ha 1.000 euro ha un'infinita ricchezza in più rispetto a chi ha zero, no? Allora, quindi questi giochi con le percentuali si possono fare in tutte le maniere. Uno dovrebbe dire, ma quanti ne ha mantenuti con le sue tasse? di gente, quanti servizi ha pagato per gli altri con le sue tasse finora pagate? E perché in America, scusate, perché uno dovrebbe pensare la tassazione punitiva serve per le cose che sono nocive. Ora, un ricco, vale a dire uno che nella vita ha avuto successo, uno che è riuscito magari a fare un'impresa, uno che è riuscito a fare un prodotto di successo e cose di questo tipo, in tutto il mondo se lo tengono stretto. Ma non è che Steve Jobs o cose di questo tipo ha fatto il male dell'America perché era molto ricco. Ha creato la Apple e ha fatto tanti posti di lavoro, ha dato ricchezza a tanta gente. Il fatto che sia riuscito con la sua intuizione a farne così tanta di ricchezza e quindi una fetta se ne sia tenuta, ha comportato che tutto lo Stato in cui lui abitava ne abbia avuto un giovamento. Quindi non diciamo sciocchezze, non è il fumo, non è l'alta velocità o cose di questo tipo, cose che in generale fanno male. Uno che ha successo nel suo mestiere e quindi produce ricchezza, produce benessere, è uno che dovrebbe essere attirato in un paese, non cacciato via col forcone. E chissà che il gesto di Putin di concedere la cittadinanza a Depardieu non vada in realtà esattamente in questa direzione. Allora, con Don Virginio Colmenia, poi abbiamo già un po' di telefonate in linea, vorrei sentire anche la voce degli ascoltatori naturalmente su questo tema, anzi è appunto particolarmente importante. Don Virginio Colmenia, insomma, l'abbiamo chiesto di intervenire anche perché, come dire, su questa questione del rapporto con la ricchezza, no? Il rapporto tra la Chiesa e la ricchezza è sempre stato un rapporto sul quale molto si è discusso, molto si è ragionato. Questi ricchi devono andare al diavolo, secondo lei? Gliela butto là in maniera in maniera proprio brutale, però senza, insomma, è chiaro che il tema fondamentale è il Vangelo, dove c'è dentro una serie di dimensioni sugli stili di vita, sul modo di vivere, una concezione che non riguarda evidentemente solo il rapporto con le persone in quanto tali, perché le persone hanno dentro un'irripetibile dignità e per cui non c'è nessuna esclusione. Nell'articolo del Credo si dice che Gesù discese agli inferi, è disceso agli inferi per sbarazzare qualsiasi idea che l'inferno fosse occupato anche da qualcuno. Don Mazzolari fece una predica straordinaria al Giovedì Santo su nostro fratello Giuda, quindi abbandonati questi linguaggi che sono da polemica elettorale, la sostanza rimane sui livelli diversi di comportamento, per cui c'è un orientamento forte non a essere contro lo sviluppo, le riforme, come ci si procura ricchezza, e questo è evidentemente uno degli elementi che chiede una riflessione anche molto forte sul piano della coscienza anche personale, lo stretto rapporto tra carità e giustizia, che non vuole Cardinal Martini che vuole Casa Carità la volle chiamare Casa Carità non per allontanare il tema della giustizia, ma per dire che la carità entra dentro nella giustizia. Don Milani diceva che la carità senza giustizia è una truffa, quindi deve ritornare questo tipo di riflessione per far intravedere che la lotta alla povertà è una questione fondamentale, che chiede anche degli stili di vita diversi. E allora attorno a questo tipo di riflessione bisogna dargli densità politica seria, di riforma a questo tipo di dimensione, che non è un'operazione di buon senso semplicemente. Lungi da noi condannare le persone, c'è il buon Dio che ci dà una visione di fraternità e quindi anzi il difendere i poveri è perché vogliamo che nessuno sia escluso nella società, però gli stili di vita contano. In un periodo di grande divario dove i ricchi diventano sempre più ricchi, la spaccatura, c'è qualche messaggio per dire che di fatto bisogna impostare politiche di ridistribuzione, bisogna definire il linguaggio della povertà non come un linguaggio di pauperismo, smettiamola di pensare di dire che quelli che credono nel Vangelo sono pauperisti, ci viviamo dentro con un'ottica di giustizia, di ricostruzione di percorsi di giustizia, guardando anche il mondo intero, lungi da me pensare che la globalizzazione non abbia prodotto, abbia aggredito anche delle disuguaglianze tremende, appunto per questo però deve arrivare il tema dei diritti, della realtà, un nuovo modo di pensare alla politica seria, legata anche alla finanza, ma che riguarda anche gli stili di vita. Del resto gli esempi anche in America, c'è una ricchezza spudorata che è entrata dentro sul piano dei comportamenti personali anche folle rispetto a questo. E allora questa dilapidazione di coscienza etica credo che riguardi anche un modo di pensare alla politica che deve essere vissuta in questi elementi di solidarietà. Sto spendendo tutta la vita per dire che la lotta alla povertà non è una lotta ideologica, è dentro agli stili di vita, e rispetto a questo aggredire anche le disuguaglianze, porsi un problema di logica redistributiva, non vuol dire essere contro lo sviluppo, ci mancherebbe altro, vuol dire riguardare anche in un modo diverso questo. E brevemente, sì, la bellezza della povertà non è state poveri che poi in cielo sarete ricchi, è di capire che dentro qui vi è un messaggio. Del resto non voglio mai dire che il tema dell'economia civile è stato inventato da uno che si chiama Francesco d'Assisi, e quindi rispetto a questo tipo di tematica si pensa che il nostro discorso sia un discorso povero dal punto di vista del valore economico, invece è estremamente importante. Abbiamo qualche telefonata, poi io però avrò bisogno di una precisazione da Don Colmegna. Abbiamo qualche telefonata, iniziamo da Laura che ci chiama da Udine. Buongiorno Laura. Buongiorno. Prego. Quando ero ragazzina, adesso 74 anni, i ricchi erano rispettati e ammirati. Quando è arrivata la contestazione negli anni 68-70, i ricchi venivano offesi. Questo è cattivo comunismo, perché rischiare il proprio capitale, perché se uno è ricco perché veramente sa fare, perché è un genio, naturalmente questa persona ha tanti problemi, anche di notte a volte non dorme per pensare come risolvere. Quindi io continuo lo stesso discorso che ha fatto prima uno che è lì nello studio, che se non ci fosse ricchezza non ci sarebbe neanche lavoro. Io potrei continuare, ma finisco qui. Siccome anch'io ero di buona famiglia e quando andavo a Cortina mi offendeva l'autista della Corriera perché ero elegante, ecco, e questo mi è rimasto impresso. Bisogna rispettare chi mette il suo genio e dà lavoro e rischia il proprio capitale. Io ringrazio. Arrivederci a tutti. Grazie, grazie Laura, buona giornata. Sentiamo anche Nicolò che ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Prego. Il mio presupposto è questo: Vendola ha fatto un clamoroso autogol, è ovvio, è il classico esempio di una sinistra di cui vorremmo fare volentieri a meno. Però secondo me, da elettore di centrosinistra peraltro, non vorrei che si facesse di tutta un'erba un fascio, diciamo, per cui anche Bersani, che si è alleato con Vendola, possa rappresentare questa visione di demonizzazione della ricchezza, che secondo me non è assolutamente corrispondente al pensiero di quello che è il Partito Democratico, di cui io sono un elettore. Depardieu in questo senso ha fatto una bruttissima figura, perché certo Vendola ha sbagliato, la ricchezza non va demonizzata, ma se anche un personaggio come Depardieu, plurimiliardario, si presta a una situazione di questo tipo, è molto grave, perché dimostra che l'idea di una giustizia sociale, di una distribuzione più equa delle risorse va completamente a farsi friggere, e questo non va bene. Sì, poi dipende naturalmente da come questa viene fatta, come ha sentito, su questo ci sono opinioni diverse. Noi adesso ci prendiamo una breve pausa e ritorniamo tra poco. 9 in punto. Ci scrive anche su Twitter Gerardo Paterna, dice con l'hashtag appunto 9 in punto: le parole di Vendola sono un eccesso demagogico della giostra elettorale, scadranno il giorno delle urne a febbraio. Questo è molto probabile, però il dibattito mi sembra che rimanga. Io richiamerei in causa Cremaschi per rispondere alla prima ascoltatrice che abbiamo sentito, insomma la signora che ci diceva prima... Insomma, i ricchi erano rispettati ai miei tempi, adesso non lo sono più, e i ricchi, come dire, con il loro lavoro, con quello che creano, che era un po' anche l'obiezione che faceva Borghi dall'altra parte, creano ricchezza. Insomma, uno come Steve Jobs era anche il suo successore, lo stesso Bill Gates, insomma, degli ultra ricchi che però hanno creato tantissima ricchezza. Ma guardi, questa è un po' la capisco, soprattutto se uno è ricco o si sente ricco, peraltro, perché spesso ci sono persone che non sono ricche, diverso appunto la questione delle tasse, che è stata detta prima, in Italia ci sia un'enorme pressione di tasse, soprattutto sul ceto medio, non c'è dubbio. Ma detto questo, guardi, c'è una battuta che si diceva nell'America di Reagan, no? 30 anni fa, e che dicevano gli economisti liberisti di allora, veniva chiamata la battuta sulle briciole, cioè bisogna che la tavola dei ricchi sia abbondante, perché così le loro briciole cadono anche ai poveri. Io non credo che questo sia un sistema giusto di far crescere giustizia, non aggiungo niente alle parole di Don Colmegna che condivido totalmente. Io penso che non sia così, che nessuno è ricco da solo. Una senatrice americana schierata del Partito Democratico poche settimane fa, nella discussione che c'è stata nel Senato degli Stati Uniti sulla questione delle tassazioni, del fiscal cliff e tutto il resto, ha fatto un'affermazione che appunto, quindi anche negli Stati Uniti c'è questo, quindi non è che negli Stati Uniti sono tutti la pensano allo stesso modo, stanno tutti coi ricchi, ha dichiarato una senatrice americana democratica che nessun ricco diventa ricco da solo, cioè ogni ricco per diventare ricco utilizza strutture comuni, strutture pubbliche, beni comuni che sono stati costruiti dalle generazioni precedenti, che magari sono stati costruiti socialmente e collettivamente dalle generazioni precedenti. Nessuno diventa ricco da solo. Quindi, detto questo, io penso che io non sto dicendo che bisogna abolire ogni differenza sociale, penso che sia giusto che chi fa delle cose importanti, chi ha l'intelligenza per costruire dei beni, delle novità, è giusto che abbia un premio, però qui stiamo crescendo a dei un'esagerazione, un modello di vita in cui il premio spesso viene prima del risultato. Cioè, il sistema finanziario che oggi domina il mondo non è fondato sulla crescita di beni comuni. Steve Jobs è un caso, ma i fondi dei derivati, che non c'entrano niente con la ricchezza e con altre cose, sono solo algoritmi costruiti su algoritmi e su capacità finanziarie, sono oggi credo 10-15 volte il prodotto mondiale, sono capitali finanziari che non hanno nessuna ricchezza materiale dietro, che girano per il mondo e fanno la nostra vita. In più io continuo a pensare che una metro di misura ci deve essere, non può esserci nessuna misura. C'era un economista, anche questo non sicuramente di sinistra, degli anni 20, il quale sosteneva, legato a Henry Ford, il quale sosteneva che nessuno poteva prendere più di 5-6 volte lo stipendio medio di un lavoratore. Oggi non credo che siamo a questi livelli. Voglio sottolineare che in Italia dire 5 volte lo stipendio medio vorrebbe dire 100.000 euro di reddito all'anno, non sono piccolissime cose. Abbiamo sentito parlare di un divorzio in questi giorni, di un divorzio in cui, e non discuto naturalmente del divorzio in sé, ma credo tutti noi siamo stati colpiti dalle cifre, in cui 100.000 euro vengono guadagnati al giorno. Quindi io credo che è evidente che bisogna ricostruire un senso della misura, non si capisce perché, ripeto, cominciamo ad avere una sensibilità giustamente sull'ambiente, sui diritti civili eccetera, e pensiamo che non ci debba essere un senso della misura sulla ricchezza. È evidente che ricchezze spropositate producono società spropositate, a meno che non pensiamo che le piramidi, siccome c'erano i faraoni particolarmente ricchi che le facevano costruire, siano un modello anche per la società di oggi. Ci scrivono su Twitter, in realtà non ha risposto fino in fondo, questi ricchi la creano ricchezza oppure no? Ma io penso che la ricchezza è il lavoro, c'è l'invenzione, certo che l'invenzione crea ricchezza, ma io non penso che i ricchi creino la ricchezza, i ricchi si appropriano della ricchezza, poi alcuni più giustamente, altri meno giustamente, ma non creano ricchezza. Se vuole proprio sapere quello che penso, così ho risposto con chiarezza. Perfetto, in maniera netta. Che la ricchezza sia un bene comune e che oggi è distribuito in maniera assolutamente ingiusta. Irene ci chiama dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, prego. Ma io ribadisco semplicemente quello che ha appena finito di dire l'ospite che parlava adesso, si sono sentite rispettabilissime opinioni, ma pochi numeri e pochi dati. I dati sono quelli che ha detto l'ospite. La ridistribuzione attualmente è a livelli medievali, quindi chi crea ricchezza e non ridistribuisce se la tiene. Inevitabilmente si creano poi sentimenti di disagio, di invidia, di odio e di disuguaglianza. Poi si sa che gli aspetti etici sono poco in voga attualmente, allora diciamo che se non si ridistribuisce veramente non si fa nuova ricchezza. Allora vediamola da questo punto di vista, però questi sono fatti, dopodiché opinioni quante se ne vogliono. Chiarissima Irene, sentiamo anche Giorgio che ci chiama da Bari, buongiorno. Io rispondo alla precedente ascoltatrice perché io sono tra i pochi italiani che dichiara quasi 200.000 euro l'anno. Non mi sento ricco, guadagno discretamente, ma non riesco a comprendere il sentimento, perché la parola detta dalla precedente ascoltatrice è quella corretta, di odio, nei confronti di chi ha una macchina particolare. Dopo 20 anni di lavoro mi sono premiato acquistando una Porsche, l'ho dovuta rivendere perché il sentimento che vedevo nella gente era di odio nei confronti di chi si era potuto permettere, spaccandosi la schiena 12 ore al giorno e stando fuori quasi 4 giorni alla settimana lontano dalla propria famiglia, il sentimento di odio nei confronti miei, perché ogni volta che scendevo dalla macchina sentivo i commenti eccetera, ho dovuto vendere la macchina ed è una cosa secondo me inaccettabile. Non si può, e lo dico anche a Cremaschi, dire che uno che guadagna 10 volte, 20 volte più di un operaio, ma perché ha proprie capacità, non deve essere un limite. Se io ho una capacità superiore a un'altra, mi pare giusto poter guadagnare di più. Ovviamente non parliamo della ricchezza di Steve Jobs, di Bill Gates, che sono sconfinate, ma se uno ha una capacità e riesce a guadagnare anche 1 milione di euro, perché deve essere demonizzato? È capace e buon per lui, voglio dire, salvo che poi tra l'altro io pago un sacco di tasse e se devo usufruire dei servizi anche sanitari, molto spesso sono costretto, per l'inefficienza di quelle che viviamo noi al sud, ad andare nel privato a pagare, e se non avessi avuto l'opportunità di guadagnare forse non mi sarei potuto permettere di andare a usufruire di un servizio adeguato. Questo mi sembra. Grazie. Grazie Giorgio per la sua telefonata. Io richiamerei in causa a questo punto Claudio Borghi su una serie di questioni, a partire da quest'idea di porre un limite, no? Dice Cremaschi e dice anche l'ascoltatrice che abbiamo sentito poco fa, insomma, ci vuole un limite a tutto questo, che non sia quello indicato, insomma, negli anni 20 magari, che sia inferiore, ma forse ci vuole un limite. È una riflessione questa che attraversa un po' tutto il dibattito sulle diseguaglianze, non solo quest'anno ma anche negli anni scorsi, se vogliamo alla base di tutto quel movimento del quale tanto si è parlato, tanto si è discusso, che è Occupy Wall Street. Borghi, prego. Ma prima di tutto bisogna cercare di parlare di dati, perché giustamente abbiamo l'ascoltatrice prima che ha detto che si parla poco di dati, no? Beh, ma mettiamoli un po', perché se dice si parla poco di dati, ma io ho appena detto che da dati dell'Agenzia delle Entrate significa che chi è, virgolette, ricco, vale a dire di chi, che io alla parola ricco sostituirei in Italia la parola onesto, perché se ci sono 2.000 persone che dichiarano un reddito alto, forse queste 2.000 persone sarebbero da proporre per il cavalierato, cioè più che andarli a inseguire, no? Perché ricordiamo che cosa è la lotta all'evasione. Quindi se uno è ricco e non ha mai dichiarato un centesimo, ma che si proceda a sequestro, non a patrimoniale. Invece dall'altra parte, se uno è ricco e ha sempre dichiarato tutti i suoi redditi, significa che ha pagato il 70% di tasse. Ed è la massima ridistribuzione mondiale che si conosca dal punto di vista della pressione fiscale. Altra cosa che uno deve dire, i ricchi diventano sempre più ricchi, ma chi lo dice? Dove sono i dati? Nel momento stesso la ricchezza è beni, come si chiama? La ricchezza sono immobili, la ricchezza sono titoli, la ricchezza sono obbligazioni, la ricchezza sono quote di imprese. In Italia in questo momento non uno di questi asset è salito di prezzo, i prezzi delle case sono scesi, i prezzi delle azioni sono scese, i titoli di Stato ne parliamo perché c'è lo spread, e le imprese, mi risulta che quelle che vadano bene sono, si contano sulla dita, sulle dita di una mano, e dovremmo tenercele strette. Ma da dove deriva questo aumento incredibile di ricchezza? Non lo so, non è, è contraddetto da tutti i dati. Io in questo momento ho davanti il rapporto di Banca Italia sulla disuguaglianza. Si dice che l'Italia, in Italia la disuguaglianza, questo famoso dato che pochi possiedono tantissimo, cose di questo tipo, è inferiore a tutto il resto del mondo, quantomeno al mondo occidentale. Poi per carità ci saranno delle eccezioni, ma io leggo qua pagina 14, quindi se sto parlando del rapporto Banca Italia disuguaglianza, non sto dicendo cose prese a caso, che dice i livelli di disuguaglianza che si osservano in Italia sarebbero inferiori a quelli di tutti i paesi considerati nell'analisi. Quindi smettiamola con queste balle. Bene, posizione mi sembra chiarissima, però Borghi, lei non ha risposto alla domanda che le ho fatta. Secondo lei andrebbe, ci vuole un qualche tipo di limitazione, di, se vogliamo anche di rapporto tra quanto guadagna per esempio un grande manager o un imprenditore rispetto a quelli che sono i suoi operai? Per un'iniziativa totalmente privata e non regolata, assolutamente no, perché se uno è particolarmente bravo e compete oltretutto in un mercato mondiale, non si capisce perché dovrebbe giocare con un braccio legato dietro la schiena. A un certo punto, se uno è particolarmente bravo, a un certo punto poi prende e se ne va. Guardi, io abito a Milano, a Lugano è qua a 30 km, mi prendono a braccia aperte, poi dopo l'Italia perde totalmente il mio gettito se io prendo e me ne vado a Lugano, eh. Quindi da quel lato lì direi proprio di no. Io invece starei prudente, e questo lo auspicherei a livello mondiale, per esempio sul settore bancario, che sta diventando ormai, ormai regolato. Vale a dire, se un settore nel momento stesso si scopre che nel momento stesso in cui le cose non gli vanno bene viene salvato col denaro pubblico, allora a quel punto diventa un settore pubblico. E allora a quel punto lì stipendi miliardari o cose di questo tipo diventano senza troppo senso, perché significa che se le cose vanno bene uno si becca il miliardo, se le cose vanno male paga il taxpayer. Poi, una volta sì, che poi, il gioco è scoperto non è il male. Chiarissimo, chiarissimo. Poi c'è tutto il ragionamento sul collegamento tra gli stipendi e i risultati che ha già sottolineato Cremaschi in parte, e che per quanto riguarda le aziende di Stato soprattutto abbiamo visto molto spesso che effettivamente è un problema. Abbiamo una pausa per la viabilità, poi voglio risentire brevemente Don Colmegna e poi abbiamo molte telefonate, a tra poco. 9 in punto. Allora, ancora con Don Virginio Colmegna in linea con noi, ci aiuti un attimo dal suo personalissimo punto di vista naturalmente a tirare le fila. No, ma ci sono tantissimi livelli diversi, però almeno alcune cose bisogna dirle. Primo, la ricchezza ha prodotto comunque sul piano dei comportamenti, stiamo parlando di un periodo della casta, dell'abuso delle ricchezze, non ha prodotto e non sta producendo se non qualche volta una grande disuguaglianza in termini di stili di vita. E questo è un elemento che riguarda tutti, la dottrina della sociale chiesa parla di bene comune. Questa cosa qui, ci mancherebbe altro che non ci sia, la produzione di ricchezza è data dalle imprese, dallo sviluppo, non siamo della gente che è contro, si è sulla libera iniziativa, tutte idee uguali, ma il tema del rapporto e del conflitto tra povertà e ricchezza è che riguarda comunque una visione anche umana, me la lasciate dire, antropologica, di fratellanza, di uguaglianza, che ha dentro le opportunità, le sfide diverse. La ricchezza ha perso questa sfida perché i ricchi sono diventati sempre più ricchi e hanno prodotto degli stili di vita che evidentemente mettono in discussione. Io qui ho qui la fila, so che è demagogia questa, dice qualcuno, ma è ora di smetterla di pensare che demagogia è la fila che c'è qui di gente che ha perso il mutuo e non ce la fa pagare il mutuo, che arriva alla fine del mese con difficoltà e vede degli sperperi dall'altra parte. Appunto perché vogliamo ricostruirlo dentro in un messaggio di giustizia seria, dobbiamo cominciare a far sì che anche l'economia guardi a questo. La grande finanziarizzazione del sistema, quando si parla di questo, il divario è scritto anche dagli economisti a tutti i livelli, con tutte. Quali sono gli strumenti? La lotta alla povertà non è un dato ideologico di conflitto, di odio, di classe, è appunto perché abbiamo un discorso di tenerezza, di fraternità, di uguaglianza. Vogliamo dire che questo non è un problema di testimonianza, di assistenzialismo, di capitalismo benevolo, è un problema di giustizia molto forte. Se sono qui a spendere anche un pezzo di vita con queste persone tagliate fuori, non è per essere testimone, per guardare in armi il regno dei cieli, è perché vedo vedo la pesantezza dell'ingiustizia e dentro questo voglio ricostruire dei percorsi di uguaglianza e di dignità. Don Colmegna, io però non ho capito se lei ritiene che in qualche modo e con brutalità di linguaggio, della quale chiedo perdono, i ricchi vadano puniti oppure no. Ma no, ma che è puniti? Il linguaggio è puniti. Siamo qui contro la decarcerizzazione del sistema, anche perché i poveri stessi sono così segnati dal discorso della ricchezza, che è povera di valori, che la ricchezza segna anche la vita dei poveri. Se questo guadagna qualcosa, qualcuno va fuori. Pensi al tema del gioco, il tema della patologia del gioco, dello sciupio del gioco. Questo riguarda il piccolo che va allo slot machine, povero, che pensa di arricchirsi a questo livello con gli altri. La ricchezza è diventata un'ideologia, e l'ideologia è la ricchezza diventata a questo livello. Ci mancherebbe altro che vadano puniti come persone singole. Abbiamo una cultura così forte di fraternità, il Vangelo parlava anche di briciole, ma questo è dentro in una parabola che è del ricco e pulone. Cioè, questo Vangelo, che fa il nostro modo di essere, riguarda questo tema, va tradotto. Non siamo nel default del non sviluppo, appunto vogliamo lo sviluppo, ma si parla di imprese, si parla di giustizia sociale, si parla di economia sociale, si parla di rapporto con l'ambiente, di rispetto con l'ambiente. Queste tematiche, che non sono no global, devono entrare nella nostra visione, ma questi sono elementi importanti. Ci mancherebbe altro che portiamo dentro l'odio. Il Vangelo è appunto affronta il problema della povertà per distruggere, per bonificare, uso una parola che usava Paolo VI, qualsiasi terreno di giacimenti di odio. Siamo profondamente innestati col tema della pace. Si potrà dire che si sciupano un sacco di soldi sugli armamenti, che vogliamo un mondo diverso. Questa utopia, coi piedi per terra, deve entrare nel nostro linguaggio. Abbiamo bisogno invece di essere custodi di un individualismo esasperato che ha prodotto la lacerazione che abbiamo visto tutti insieme. Questo viene messo come moralismo. Questo... Vogliamo addirittura nessuno deve andare all'inferno, anzi dobbiamo abbracciarci tutti in termini di giustizia, ci mancherebbe altro. Questo il suo pensiero. Abbiamo un po' di telefonate, se non erro la persona che attende da più tempo è forse Alessandro dalla provincia di Udine. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, sì, prego. No, una cosa molto rapida, volevo dire solo questo, che i ricchi, e parliamo di quelli onesti, sono tali perché sono riusciti ad operare in un paese che ha consentito questo. Fossero nati in un altro paese, probabilmente a quei livelli non sarebbero mai arrivati, sia per le leggi sull'evasione, sui controlli, tutte queste cose. Che poi uno veramente ricco, non so quanti lo siano diventati, diciamo fra virgolette, onestamente. Tutto qua, grazie. Tiziana ci chiama dalla provincia di Pavia, buongiorno Tiziana. Buongiorno a tutti. Io apprezzo tantissimo il discorso di Don Colmegna e lo sposo a pieno, però volevo dire una cosa, probabilmente gli economisti, i suoi ospiti saranno più precisi di me, ma la Chiesa che tanto protesta, che tanto si fa sentire, che tanto evangelizza, credo che a livello mondiale sia l'entità più ricca in assoluto, e queste ricchezze della Chiesa le vengono da acquisto di indulgenze, lasciti. Io non so, vivo in una piccola città, qui ci sono persone che quando si avvicinano diciamo alla data della loro dipartita e la sentono arrivare diciamo sopra i 60 anni, lasciano un sacco di proprietà, immobiliari piuttosto che non gioielli, che poi vengono rivenduti, e le lascia alla Chiesa. La Chiesa in una cittadina piccola come la mia possiede un sacco di cose, ma perché, visto questo clima generale di caccia alle streghe, non fa un mea culpa e aliena un milionesimo di quello che c'è nei sotterranei, nei cavò dei musei vaticani, ecco, ad esempio, appianerebbe il debito dei paesi africani? Ma perché loro per primi non cercano, Tiziana, visto che comunque da dove gli viene la ricchezza? Tiziana, abbiamo capito benissimo, vedremo se avremo tempo di rivolgere la domanda a Don Colmegna, che comunque non è uomo di gerarchie e quindi insomma dubito che possa rispondere su questo. Sentiamo anche Maurizio che ci chiama da Milano, buongiorno Maurizio. Buongiorno, volevo dire una cosa in generale, una cosa sull'attualità del mondo di oggi. Allora, secondo me, prima di tutto, anche per portare dette tante cose giuste fino adesso, per carità, mi sembra che manchi anche un po' di buon senso. Allora, prima di tutto, se nessuno produce ricchezza, poi nessuno ce l'ha da distribuire diciamo, ai poveri, a quelli a cui mancano. Quindi benedetto chi produce ricchezza. Poi il problema è che come fai a distribuirla? Allora, chi è ricco è sostanzialmente ha due sistemi per far girare la sua ricchezza. O consuma o investe, e probabilmente tutte e due. Allora, oggi siamo in una situazione dove chi consuma viene penalizzato perché se consuma tanto o se consuma beni di lusso viene trattato come se fosse, anziché un benefattore, viene trattato come se fosse un delinquente, anche per magari supposizioni non per forza giuste sull'origine della sua ricchezza, compreso il non pagamento delle tasse. Per cui o chi ha i soldi o viene incentivato a spenderli o quei soldi non girano. Se non girano vuol dire che vengono investiti. Ora il problema è che in questo momento nel mondo, non solo in Italia, la ricchezza, l'investimento finanziario è quello che è tassato a livello minore di qualunque altra attività reale. Di conseguenza chi ha i soldi e li deve investire li investe in finanza, però in finanza di carta, che non produce economia reale. Per cui non si crea dell'ulteriore ricchezza, posti di lavoro e distribuzione che potrebbe quantomeno contribuire a risolvere un po' di problemi. Maurizio, chiarissimo. Allora abbiamo esattamente un minuto e io voglio 30 secondi di risposta da Cremaschi, innanzitutto al signore che ha chiamato prima e diceva gli sguardi di odio per la Porsche. Insomma, c'è un po' un clima di questo tipo, no? Lei dice è un tabù, in realtà no. Beh, no, è un tabù, no, beh, è un tabù parlarne. Le occhiatacce non lo sono, dice. Ma le occhiatacce sono l'altra faccia del tabù. Più una cosa viene nascosta, vale per tante cose della nostra vita, più una cosa viene, diciamo così, non viene discussa, come noi facciamo una discussione giusta oggi per una provocazione di campagna elettorale che anch'io credo non avrà un grande futuro, perché non vedo poi misure corrispondenti. Cioè io non vorrei mandare no, e poi non mi compete autorità molto più alte di me decidere chi va all'inferno e chi va al paradiso, ma mentre invece vorrei discutere concretamente di come si redistribuisce la ricchezza e di come si impediscono le ingiustizie sociali. Voglio anche dire a Borghi che mi sono andato a rivedere in questi minuti e quella relazione della Banca d'Italia di cui lui brevissimo parlava. No, questa relazione dice che in Italia è vero che non c'è quella differenza di altri paesi, ma dice anche due cose. Uno, che la disuguaglianza nei redditi invece è molto più forte di quegli altri. Quindi vuol dire la fermo Cremaschi, se no ci mandano in pubblicità senza i saluti. Grazie Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanita in redazione, Rosa Eleonora Sabrina al centralino. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A domani. Radio 24. La passione si sente.